Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Dracula di Bram Stoker. Traduzione di Rosanna Pelà. Diario del dottor Seward. Prima di ritirarci siamo andati a vedere la povera Lucy. Certo l'impresa di pompe funebri aveva fatto bene il suo lavoro, perché la stanza era stata trasformata in una piccola cappella ardente. C'era una profusione di splendidi fiori bianchi e la morte era stata resa il meno repellente possibile. Un lembo del lenzuolo copriva il volto di Lucy e quando il professore si è chinato per tirarlo indietro delicatamente, siamo rimasti entrambi stupefatti dalla bellezza che ci si presentava davanti e che la luce delle grandi candele bastava a mettere in evidenza. Tutta la grazia di Lucy le era stata restituita in morte e il trascorrere delle ore, invece di lasciare le tracce delle dita distruttrici della decomposizione, aveva ricostruito la bellezza della vita tanto che io stentavo a credere di essere in presenza di un cadavere. L'espressione del professore era rigida e grave. Egli non l'aveva amata come l'avevo amata io e non c'era motivo che piangesse. Mi ha detto: «Restate qui fino al mio ritorno». Ed ha lasciato la stanza. È ritornato con un fascio di fiori di aglio, presi dalla scatola che era rimasta nell'atrio senza essere aperta, e li ha messi intorno al letto e in mezzo agli altri. Poi si è tolto dal collo una crocetta d'oro che portava sotto al colletto e l'ha posta sopra la bocca di Lucy. Poi ha ricoperto il suo volto con il lenzuolo e siamo usciti dalla stanza. Stavo spogliandomi in camera mia quando, dopo aver bussato alla porta, il professore è entrato e mi ha detto subito: «Voglio che a me portate domani, prima che fa notte, una serie di strumenti da autopsia». «Dobbiamo fare un'autopsia?» «Sì e no. Voglio operare, ma non come credete voi. Lasciate che dica voi adesso, ma non una parola a nessun altro. Io voglio tagliare sua testa e asportare suo cuore». «Come? Voi medico? E così scandalizzato? Voi, che vi ho visto fare operazioni di vita e di morte che fanno rabbrividire gli altri, senza tremare né con mani né con cuore. Oh, ma io non devo dimenticare, caro amico John, che voi amavate lei. E non ho dimenticato, perché sarò io che faccio operazione. E voi dovete solo aiutare me. Vorrei farlo questa notte, ma non posso per Arthur. Lui sarà libero domani, dopo funerale di suo padre, e vorrà vedere lei... vedere questo. Poi quando bara sarà chiusa e pronta per giorno dopo, noi verremo quando tutti dormono. Sviteremo coperchio di bara e faremo nostra operazione. Poi rimettiamo tutto in ordine, così che nessuno sa, tranne noi. Ma perché fare questo? La ragazza è morta. Perché mutilare il suo povero corpo senza necessità? E se un'autopsia non è necessaria e non ne deriva alcun vantaggio, né per lei, né per noi, né per la scienza o per l'umano sapere, perché fare una cosa simile? È mostruoso quando non è indispensabile. Come risposta, egli mi ha posato una mano su una spalla e mi ha detto con infinita tenerezza: «Amico John, io ho compassione di vostro povero cuore sanguinante e vi amo di più perché tanto sanguina. Se potevo, prendevo su di me il peso che voi portate. Ma c'è cose che voi non sapete, ma che poi saprete. E bene direte a me di saperle, anche se non sono cose piacevoli. John, figlio mio, siete stato mio amico da tanti anni. Ma avete mai visto me fare cose senza buona ragione? Posso sbagliare, sono solo un uomo, ma io credo in tutte cose che faccio. Non è per queste ragioni che voi avete cercato me quando è cominciato grande disastro. Non siete stato voi sbalordito, no, orripilato, quando io non ho permesso a Arthur di baciare il suo amore, pure essa era per morire, e strappato lui via con tutte mie forze. E poi avete visto come lei ringraziava me con suoi bellissimi occhi morenti, e anche sua voce tanto debole baciava mia vecchia mano ruvida e mi benediceva. E non avete sentito me fare a lei giuramento, così che poteva chiudere suoi occhi in gratitudine? Sì. Ebbene, adesso io ho buoni motivi per fare quello che voglio fare. Per molti anni voi avete avuto fiducia di me. Avete creduto in me in settimane passate, quando erano cose così strane che voi potevate davvero dubitare. Credete a me ancora un poco, amico John. Se non fidate voi di me, allora devo dire cosa che penso. E forse non è bene. E se lavoro, e lavorerò, certo, non importa se avrò vostra fiducia o no. Senza fiducia di mio amico, lavoro con cuore pesante e mi sento tanto solo, quando ho bisogno di tutto l'aiuto e il coraggio che è possibile. Dopo una pausa ha proseguito con gravità. Amico John, strani e terribili giorni sono davanti di noi. Lasciate che non siamo due, ma uno, per lavorare insieme a buon fine. Non avrete fiducia in me? La mano e ho promesso. Quando è andato via ho lasciato la mia porta aperta e l'ho osservato mentre entrava in camera sua e chiudeva l'uscio. Ero rimasto lì immobile e ho visto una delle cameriere attraversare il corridoio silenziosamente. Mi voltava le spalle, quindi lei non mi ha visto, ed entrare nella stanza dove giaceva Lucy. Ne sono stato commosso. La devozione è così rara. E noi siamo grati a coloro che la dimostrano quando non è richiesta alle persone che amiamo. Ecco qui, una povera ragazza che, sormontando il suo naturale terrore della morte, andava tutta sola a vegliare davanti alla bara della padrona, alla quale aveva voluto bene, in modo che la povera Argilla non fosse abbandonata prima di essere sepolta nell'eterno riposo. Devo avere dormito a lungo e profondamente perché era pieno giorno quando Van Helsing mi ha svegliato entrando nella mia stanza. Si è avvicinato al mio letto per dirmi: «Non è bisogno che vi disturbate per gli strumenti di autopsia. Non la farò». «Ma perché?» gli ho chiesto. La sua gravità della sera prima mi aveva molto impressionato. «Perché?» ha risposto seccamente. «È troppo tardi. O troppo presto. Vedete?» e mi ha mostrato il piccolo crocifisso d'oro. «Questo è stato rubato nella notte». «Ma come rubato?» ho esclamato stupefatto. «Se lo avete voi?» «Perché io ho ripreso questo all'indegna, sciagurata donna che ha derubato i morti e i vivi. Sua punizione certo verrà, ma non sarò io che punisce. Lei non sa che cosa ha fatto e così, senza sapere, ha solo rubato. Adesso noi dobbiamo aspettare». E con ciò se n'è andato, lasciandomi con un nuovo mistero a cui pensare, un nuovo enigma da risolvere. La mattina è trascorsa malinconica, ma a mezzogiorno è arrivato l'avvocato, il signor Markham, dello studio Wallman e figli, Markham e Lida Dale. È stato cortesissimo e ha molto apprezzato quello che avevamo fatto, e si è assunto lui la cura di ogni particolare, scaricandoci da ogni responsabilità. Durante il pranzo ci ha detto che la signora Westenra da un po' di tempo si aspettava di morire improvvisamente per un attacco di cuore, e aveva messo in perfetto ordine tutti i suoi affari. Poi ci ha informati che, a esclusione di una certa proprietà vincolata del padre di Lucy, che ora, in mancanza di eredi diretti, sarebbe andata a un ramo distante della famiglia, l'intero patrimonio, immobili e mobili, era stato lasciato ad Arthur Holmwood. Ho lasciato l'avvocato in salotto e ho detto a Van Helsing che Arthur aveva dato l'estremo saluto a Lucy. Allora egli è andato in cucina per ordinare agli uomini dell'agenzia di pompe funebri di procedere nei preparativi e chiudere la cassa. Quando è ricomparso gli ho parlato del dubbio di Arthur e il professore ha dichiarato: «Non sono stupito. Proprio adesso, per un momento, ho avuto dubbio anch'io. Abbiamo cenato insieme e io vedevo che il povero Arthur si sforzava di essere calmo. Van Helsing era rimasto silenzioso per tutto il pasto, ma quando abbiamo acceso i nostri sigari ha cominciato... Lord... Ma Arthur l'ha interrotto. No. Per l'amor di Dio, non chiamatemi così, non ora almeno. Scusatemi, signore, non intendevo essere scortese. È soltanto perché la mia perdita è così recente». Il professore ha replicato con grande dolcezza: «Ho usato questo titolo solo perché avevo dubbio. Io non devo chiamare voi signore, e io sono giunto ad amare voi. Sì, mio caro ragazzo, ad amare voi, come Arthur». Arthur ha teso una mano e ha stretto con calore quella del vecchio. «Chiamatemi come volete», gli ha detto. «Spero di poter avere sempre il titolo di amico. E consentitemi di dirvi che non trovo parole per ringraziarvi della vostra bontà verso la mia povera cara». Dopo una breve sosta ha continuato: «So che lei comprendeva la vostra bontà meglio di me, e se sono stato scortese o in qualche modo mancante quella volta che voi avete agito così, ricordate», il professore ha annuito, «vi prego di perdonarmi». Van Helsing gli ha replicato con garbo e gravità: «So che per voi era difficile avere completa fiducia di me allora, perché bisogna capire per avere fiducia di tanta violenza. E io credo che voi non potete avere fiducia di me ora, perché voi non avete ancora capito. E potrà succedere altre volte che io vorrò vostra fiducia quando voi non capite, non potete capire e non dovete neanche capire. Ma verrà il momento che voi avrete fiducia totale e completa di me, e che voi capirete come quando tutto è alla luce del sole. Allora, voi benedirete me dal principio alla fine per il vostro bene, per il bene di altri e per il bene della vostra povera cara, a cui ho giurato protezione». «Certo, sì, sì, signore», ha detto Arthur con calore. «Avrò la massima fiducia in voi. Io so, credo che abbiate un cuore nobilissimo e siete amico di Jack, e siete stato amico di Lucy. Avrò tutto quello che ho per te». Il professore si è schiarito la gola un paio di volte, come se volesse parlare, e infine ha detto: «Posso farvi una domanda ora?» «Certamente». «Sapete che la signora Westenra ha lasciato a voi tutte le sue proprietà?» «No, povera cara, questo non l'avrei mai immaginato». «Poiché è tutto vostro, voi avete diritto di fare tutto come volete. Io desidero che voi date a me il permesso di leggere tutte le carte e le lettere di signorina Lucy. Credete a me, non è vana curiosità. Ho un motivo di cui potete essere certo. Lei avrebbe approvato. Io ho tutto qui. Le ho prese prima di sapere che tutto era vostro, così che nessuna mano estranea poteva toccarle. Nessun occhio estraneo poteva leggere in sua anima attraverso le parole. Io terrò esse, se permettete. Neppure voi potete ancora vedere esse. Ma io le terrò al sicuro. Nessuna parola sarà perduta e in tempo giusto. Io restituisco esse a voi. È una cosa penosa che io domando, ma voi fate questo, non è vero, per amor di Lucy?» Arthur ha risposto con la sua solita generosità di cuore: «Dottor Van Helsing, potete fare tutto quello che volete. Sento che agendo così avrei l'approvazione della mia amata. Non vi annoierò con domande finché non verrà il momento opportuno. Il vecchio professore si è alzato, dicendo in tono solenne: «E avete ragione. Ci sarà dolore per tutti noi, ma non sarà solo dolore. E questo dolore non sarà l'ultimo. Noi, e anche voi, voi più di tutti, mio caro ragazzo, dovremo passare per acque amare prima di arrivare a dolci. Ma dobbiamo essere coraggiosi di cuore e non egoisti e fare nostro dovere e tutto andrà bene. Questa notte ho dormito su un divano nella camera di Arthur. Van Helsing non si è mai coricato, ma seguitava ad andare su e giù, come se pattugliasse la casa e senza mai perdere di vista la stanza in cui Lucy giaceva nella barra, scorsa di fiori di uraglio selvatico che emanavano, mescolato al profumo dei gigli e delle rose, un odore acre e insopportabile, e lo spandevano nella notte. Diario di Mina Harker, 20 settembre. In treno, diretti a Exeter. Jonathan dorme. Sembra che sia passato soltanto un giorno da quando ho scritto le ultime note. E invece quanti eventi da allora a Whitby e in tutto il mio mondo. Jonathan assente e io priva di sue notizie. E ora sposata con Jonathan. Jonathan è diventato un procuratore, un socio, ricco, padrone del suo ufficio. Il signor Hawkins morto e sepolto, e Jonathan con un'altra crisi che può fargli del male. Un giorno potrebbe chiedermene conto. Ecco, io scriverò tutto. Sono arrugginita con la mia stenografia. Questi gli effetti di un'imprevista prosperità economica. Quindi è bene che io la rinfreschi con un po' di esercizio. Il servizio funebre è stato molto semplice e solenne. Vi assistevamo soltanto noi e la servitù, uno o due suoi vecchi amici di Exeter, il suo agente di Londra, e un signore venuto in rappresentanza di Sir John Paxton, il presidente della Incorporated Law Society. Jonathan e io ci tenevamo per mano e sentivamo che il nostro amico migliore e più caro ci aveva lasciati. Siamo tornati in città silenziosamente prendendo un omnibus per Hyde Park Corner. Jonathan ha pensato che mi avrebbe fatto piacere andare nel Row per un po' di tempo. Così ci siamo seduti. Ma c'era pochissimo pubblico e vedere tante sedie vuote era triste e deprimente. Ci ricordava la sedia vuota a casa. Perciò ci siamo alzati per avviarci verso Piccadilly. Jonathan mi teneva a braccetto come soleva fare nei vecchi tempi, prima che io incominciassi a insegnare. Io lo giudicavo molto sconveniente perché non si possono impartire per anni lezioni di etichetta e di decoro ad altre ragazze senza rimanere un po' contagiate dalla pedanteria. Ma si trattava di Jonathan. E Jonathan era mio marito. E non conoscevamo nessuno di quelli che ci vedevano e semmai non ce ne saremmo curati. Quindi abbiamo continuato a passeggiare così. Stavo guardando una bellissima ragazza con un gran cappello a ruota, seduta su una vittoria davanti a Julianus, quando ho sentito Jonathan stringermi il braccio con tanta forza da farmi male e dire con il fiato mozzo: «Mio Dio!». Io sono sempre in ansia per Jonathan perché temo che qualche attacco nervoso possa nuocergli di nuovo. Mi sono girata subito verso di lui chiedendogli che cosa lo avesse turbato. Era pallidissimo e gli occhi parevano schizzargli fuori dalla testa, un po' per il terrore, un po' per lo sbalordimento, mentre fissava un individuo alto e magro, con un naso a becco, i baffi neri e la barba a punta, il quale osservava a sua volta la bella ragazza. La guardava con tanta intensità che non si è accorto di nessuno di noi due, per cui io ho avuto modo di vederlo bene. Non aveva certo un viso simpatico. La sua espressione era dura, crudele, sensuale, e i suoi grandi denti bianchi, che apparivano ancora più bianchi per contrasto con il rosso acceso delle labbra, erano aguzzi come quelli di un animale. Jonathan seguitava a squadrarlo, tanto che io temevo che l'uomo se ne avvedesse e se ne irritasse, dato il suo aspetto feroce e malvagio. Ho chiesto a Jonathan perché fosse così sconvolto, ed egli mi ha risposto, evidentemente convinto che io ne sapessi quanto lui in merito. «Ma non vedi chi è?» «No, caro, io non lo conosco. Chi è?» La sua replica mi ha colpita e agitata, perché mi ha dato l'impressione che Jonathan non sapesse di parlare con me, Mina. «È lui! È quell'uomo in persona!» Il poverino era evidentemente terrorizzato di qualcosa, terrorizzato al massimo, e non sono sicuro che se non mi avesse avuta vicina a sorreggerlo, sarebbe svenuto, ma seguitava a fissare lo sconosciuto. Un uomo è uscito dal negozio con un pacchettino e l'ha consegnato alla signora, la quale è ripartita. Il triste individuo le teneva sempre gli occhi addosso, e quando la Vittoria si è avviata per Piccadilly, l'ha seguita e ha fermato una carrozza. Jonathan, che ancora lo guardava, ha detto come a se stesso: «Io credo che sia il conte, ma pare ringiovanito. Mio Dio, se fosse vero, oh mio Dio, se almeno potessi saperlo, se almeno potessi saperlo». Era in un tale stato di agitazione che ho avuto paura, facendogli delle domande, di tenere la sua mente fissa sull'argomento, e sono stata zitta. L'ho trascinato via con calma, ed egli, stringendosi al mio braccio, è venuto docilmente. Dopo aver camminato ancora per un po', siamo entrati nel Green Park per andare a sederci. Era una giornata calda per essere autunno, e ci siamo messi su una panchina comoda in un sito ombroso. Jonathan, dopo aver guardato il vuoto per qualche minuto, chiuso gli occhi e si è rapidamente addormentato, la testa appoggiata alla mia spalla. Pensando che per lui questa fosse la cosa migliore, non l'ho disturbato. Circa 20 minuti dopo si è svegliato e mi ha detto, tutto allegro: «Così ho proprio dormito, Mina. Perdonami di essere stato scortese. Vieni, andiamo a prendere una tazza di tè da qualche parte». Evidentemente aveva dimenticato tutto sul cubo straniero, come nella sua malattia aveva dimenticato tutto quello che questo episodio gli ha richiamato alla mente.